che è sempre quello stravaganza. Sì, basta proprio, bisogna ammazzare la stravaganza subito. Risolto! Per questo di bugna faccia l'avevo buttato in terra, adesso, beccate quella. Marina enorme che sta a noi! Guarda, tu quasi il più forte del mondo. Cioè, con me, cioè, può essere più forte il più forte che vuoi. Con me, quando mi ci girano le balle, io ti affronto. Poi magari ne posso pure obbligare, attenzione. Però ti affronto. Però se ne piglio da quel toro, con questa cosa, però. Non come la fammi incazzare fuori, Ma con me è una cosa non ha più gana di far casino. Perché vai a controllare, la cosa è pronta la pizza, va. Vai a mangiare la pizza, Antonio, così ti rinforzi bene. Io la violenza l'ho sempre odiata. Beh, ci gommino così. Ti gommino, affettando stai. Bravo. Tu, come conosciuto? Fuggiti di Niso, Franco è andato a farsi un caffè, cazzo per Durongo deve farsi un caffè. Alessandro! Ma te se ne invita la di Franco il caffè, mamma mia! Lascia affettare, affettando state, oh yeah. Ecco qua, Fufi! Emanuele! Già finite a mangiare, fra un po' mi preparo, metto di viso tutto quanto! Parotti, orgoglio! Ho mangiato perette e salsiccia, così. No, è cazzo perette, ma ci mangiato una pizza ai calamari. Vabbè, io me la mangio mercoledì. Mercoledì me la mangio quella ai calamari. Però non la pizza, la pinza. Parotti, orgoglio! Parotti, orgoglio, guarda la posto mio, mi dai il cambio, Artù, che io sto a letto. Se mi dai di nasi, vuole fare pipistrello. Ma prendo io e ti vedo a te. Ormai non c'è mai problemi. Però devi stare molto attento. Molto, molto attento lì. No, non è problemi. Se vuoi fare il butto d'ora a Rugugio, per dire la guardia, immaginiamo, ti fai andare a notte, immaginiamoci se non metto problemi lì. Sì, è pericoloso, ci sono soldi, devi stare attento, ci sono domini, vicino ai carceri, sì, lì. Qualche cosa facciamo la pulizia. Sì, quando arriva la pulizia si sta rimboccando tutto. Ma non si butta né nulla, no? L'hanno disegnato e lì è la Gandria e la ricutto voi. Questo secondo me era dormito, quando è diventato da sonno. E al collega di un amico mio che ha Oderzo vicino a Treviso facendo la guardia giurata, sono saltati dal tetto, questi albanesi li sono saltati addosso, l'hanno disarmato e hanno rubato in questa fabbrica dove fanno bracciali d'oro, roba del genere, rubunia ne era azzurra, l'hanno... Roba amara, roba roffia, chi su travaglio bisogna avere due palle così grandi. E poi non si è riconosciuto, quando fa la guardia giurata non ha nessun potere, capito? Sì che se poliziotto è un conto, li butti là, ma va, pagandosi la guardia giurata non si è riconosciuto da nessuno, se fa qualche cosa magari rispari e si muove il muro dritto. Eppure i poliziotti succede così, non hanno più autorità come ti va via ne prima, non ha compreso? Allora noi ti ne puoi cavare la pistola così, no? E la pistola va all'ospizionale. E infatti, se ci mettono in galera a te, stai scherzando, non possono lavorare questi poveri cristi, invece un po' di autorità ci vuole, e come se ci vuole. 2,83, Alessandro è ancora parecchio. Io a te c'è niente, la vi do una medaglia, perché per fare quel lavoro ci vuole coraggio veramente, guarda, anche nelle forze dell'ordine, perché neanche loro possono lavorare come si deve. Infatti cazzo, a Candarrivi si stanno buttando tutto, aveva ragione Emanuele, andati di tu così. Logicamente devi fare qualcosa, devi fare. Se ci subito un muro, deve stare agli occhi aperti. Tu i grigiamà voi non riviniani, a furtomi, non fa cose di così di gatti. E non vi sono giunti, chi non va in macchina, disini, non è compreso, non ci vengono più, non è più come prima. Invece di accorrere come accorrevano prima, adesso si passano la palla uno con l'altro, si passano i papi da quella questura, poi con i carabinieri e non vi viene nessuno. E accanto arrivi e di qualcuno che proprio arrivi e si stanno buttando tutto, pure la guaglia si stanno buttando. No, perché penso che loro siano un po' particolare, siano, quindi devono intervenire per forza l'apertura. Se non lo fanno sono passibili denuncia, non ve ne è come un privato che chiama, lì è diversa la storia, lì devono intervenire per forza. Sono due cose diverse sono. No, ed intervenne in misura di pezzango, roba di omicidio, se no non intervenne neanche un mare balle. Li ho chiamati io per furto in casa mia e non ci sono venuti, stai scherzando, che mi avevi fatto la vagogna. Ma per quei cose lì, per quegli enti lì c'è un accordo, cioè, da quanto ne so io. Qua Rurato, tu devi invitare un caffè, devi, venga, si accomodi, come lo vuole, quanto zucchero vuole. Cazzo, più voi, dosta, mari. Ecco, fa una cosa, pura di gusto e da mineralizzare. Vieni qui, Gerali. Di cosa, del caffè? E oggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non dico qui. Un casino è già, è un vizio me. Se me ne vedi lì ti usci. Tu dove la tremoletta di bene? È per forza perché ti fa salire la pressione. Stato misurato, ha detto, adesso mi misura la glicemia a vedere quanto c'ero. A 105. Sì, 105 è giusto, se dopo che ho preso il caffè. No, stava, dopo che ho mangiato ho misurato 105, 110, non di più. Perché te la stai misurando, fra? Oh sì, ma me la potrò misurare per gusto, a prova. Ma chi la usa la macchinetta? La tua compagna? No, ce l'avevo io qua, era di mia sorella, se l'avevo dimenticata qua con gli stick. Allora gli stava la brugo, e l'ho provata, 105. Sì, 105 va ancora bene, dai. Va ancora bene. Casino, bisogna misurarla, perché il diabete è l'onfio. A me lo dice. Sono Giulia, per carità. Beh, Natalino, cosa sei? Combinendi? Sì, misurandomi la glicemia. KK, adesso ce l'hai a 110. Ma se con gara devo respirare, cazzo, cazzo, cazzo, la cazzo, a pietra, ormai, con gara. Quello che sta tutta la vita si sta parlando di queste cose. Sentendilo. Questo è un malo di ammette che si può usare anche solo. È male. Lasci pigliare un caffè. Andiamo. Uno non riesce a capire le cose quando ce le ha. Che no, anche io a pranzo, quando me l'ho misurata ce l'avevo 105. Sì, ieri invece a 120 a pranzo. Vabbè, 120 non è che sia. Anda bene, dai. Sì, 115 ce l'ha bene. La cosa brutta è quando supera 200, allora si a rischio lì. La mia sorella gli è salita una volta, una notte a 380, quasi 400 ce l'aveva di glicemia. Ma chi, quella che è morta? No, mia sorella, capito, che è diabetica, gli è salita a 400 e rotti. E cosa ha mangiato? Di tutto e di più. Ti sale se mangi cose che non devi mangiare. Qua se mangi pesce, uova e queste cose qua non ti sale. Se mangi la pizza ti sarà l'impicco. Sì, la pizza, la fainé, i dolci, le paste, i frittelli, tutta questa roba. Fra, i dolci si sa, sono già scontati, i dolci che si fanno salire la glicemia, però la pizza, me l'ha detto anche il dottore, la pizza è micidiale, cerchi di mangiarne massimo una volta alla settimana perché sale un vego la pizza, e quando mangi la pizza non mangi altro. Vero, eppure la fainé la fa salire. Ma la fainé non più di tanto a me, no, non più di tanto, ma dipende sempre quanto ne mangi, fra. Vabbè, io ne mangio un bel già lo sai. Quando ce l'hai davanti, secondo me mi piace un bel, capito? Poi ci metto pepe pure, figurati. No, vabbè, la fainé dopo un po' mi stufa, non ne mangio più di tanto, lo sai. La devo mangiare con le cipolle perché quella normale non ve la posso ingudire da brucchio. Invece quella con le cipolle un po' si vara. Però dopo che ne mangi 4-5 fette, finito. Dove la prendi? Sempre da Piras. Pira. Via Lurla. O la prendo io oppure l'ho presa una volta vicino a casa, ma la fanno troppo fina. Veniero. Me l'hanno fatta troppo fila, non mi piace così fila, troppo secca. Mi piace di più la pila che la fa un po' più grossetta ed è buona quella lì. Io l'ho presa una volta a San Donato, ma buona veramente. Sì, chi se la fa di avorio? Ma guarda, non so così se ancora. Non mi detto così. Quello non viene. O quello oppure usai. Ma usai, in via usai, stai dicendo, in via usai. Quello lì. Sizzu. Non sono più in una controversia. Nessuno usai. Sizzu non c'è più. Pira è il fratello di Sizzu. Se ce la facevo una Roma a Tessi e se no da Benito. Io non so. C'era quello di via Grazzeretta che la faceva un bel anni fa. Sì, Gianfranco Corraluzza. Certo, quella lì io la mangiavo ogni sera quella lì, perché io con Gianfranco ci uscivo, andavo a prenderlo, quando finiva l'ultima tela la faceva per lui e un po' la dava ai cani, la portava anche i cani erano abituati a mangiare fainé. Ma prima quando la faceva la fainé era molto meglio di quella da adesso non c'è nessun sapore, pure non ho capito perché. Prima il sapore di cicci si sentiva, hai ragione tu. Non c'è nessun sapore, ma io la faccio qua ogni tanto, capito? Però non c'è nessun sapore, gli ingredienti sono diversi, prima sentivo il sapore dei cicci, me lo ricordo. Noi la prendevamo, andavamo tutti in greffa e prendevamo da bere la spuma, non so se tu la conosci. Eglia. Io la prendevo lì in coso, in via Rosello anche. Oppure da cosa, di Neronacchio, Burri, da Bazzia, quello che c'è all'angolo del tabacchino sempre, via la Marmora forse. No, ma io l'ho sempre presa, siamo sempre andati lì a mangiarla da Zizzo e anche da Sasso. Adesso non mi ricordo se è Sasso o Zizzo quello che è rimasto aperto, forse è Sasso. Però siamo andati una volta con un amico, ti ridazzi appena e ti fai magari un benedina a mangiare la tavolina. Costa un bel, ho aumentato un bel, adesso una teglia grande mi pare che abbia 10 euro. Ma prendi la teglia piccola da coso, dove vado io, e la teglia piccola è quanto la teglia grande degli altri posti, enorme. E quello del granurra, te ne dato un bel? Paghi su 12 euro. Poi vabbè, normale, poi se ci aggiungi l'aggiunta di cipolle o salsicce, chiaramente te la fa pagare di più. No, con le cipolle l'ho pagata. La media? La piccola. Ah, è la piccola. Io una volta ho preso quella grande. Cazzo, non me l'ha giocata a mangiare a mira, E chi ha mangiato la da bui, Mario? Se la mangi calda è meglio. Io me la metto nel microonde, me la scaldo e me la mangio. Vabbè, lo stesso. Adesso ho preparato l'impasto, solamente che è pronto alle 9:20, 9:30, perché mi lasciava 4 ore a riposare. La fainé è preparata? No, l'impasto, adesso sto aspettando. Devo aspettare 4 ore, capito, per la lievitazione, se no è un casino, se no esce tutto a bolle. Ma chi ma devi togliere lì? Lo so, Natale, se no esce tutto a buscicchi. Infatti la... una volta l'ho messa così, è uscita la porcheria, ce l'ho buttata. E se la pongo a 180, 200 gradi, prima per cercarti a 200, poi te la chiudo 30, le due figlie. Perché ho fatto 400 grammi due figlie, e su riesce un bel grusso anche. E metti di meno. Non puoi mangiare. Io preferisco comprarla. Non sto a scillarlo. Me la compare, ci puoi bruciare io a casa. Vabbè. Lì sai, a sporcare i tegami, a fare consumare gas, queste cose non dico me la comprare già fatta. Vabbè, la soddisfazione di farla. Quello sì. È come andare a pescare, no? Con i soldi che spendi in esca ti pigliarei anche 2 chili di pesce. Vuole pescare, non stanno pescando niente, mi stanno pescando, lo sai dove? Lì all'Argentiera, a mare aperto. E anche a Sicilia, a mare di Furi, sarà che bello. Ma ti voglio vedere a te, farendi chi si rocchi, di fagioso, lì a Capo Falcone, mi. Stanno a Portoferro, figurati, mi faccio tutte quelle luci che ci sono. Però mi prendi di tutto, Se sei fortunato, prendi anche pesci grossi. Lì c'è di tutto, se fai col vivo, ui. Due canne ti devi portare, perché con due canne, anzi una canna è pizza tutto. Perché li prendi anche Saragone, anche lì a cosa, a Portoferro è bello. E a Portoferro sto dicendo. Io ci prendo anche lì, ci. A Portoferro io una volta in spiaggia ho fatto una pescata, eravamo nel mese di marzo, avevo preso 4 ratte e poi avevo fatto 8 saragoni, ma saragoni grandi e 2 mormoroni di sera. Ma dove? Alla parte della torretta? Mappa di positivo, sì, molto prima della torretta, la torretta non c'ero neanche arrivato perché devi fare un po' di strada a piedi, però ci deve essere una strada che scende proprio vicino alla torretta. Io non l'ho trovata quella strada lì perché mi hanno detto che non ben messa male. No, c'è il cancello e il pastore lo chiude. Non ti vado a entrare, il pezzo migliore è lì infatti, capito? C'è il posto che arrivi vicino alla spiaggia, capito? Arrivi vicino, scendi dalle luci e sei di spiaggia, Però una volta scendono le mucche a bere, cazzo d'estate. Una volta sono scese le mucche, stavano bevendo l'acqua di mare, dalla sette che avevo. Non ti vado a entrare un bastone, perché se chiuso a chiave il cancello, al modo che non lo conosci, è diverso, se no è un casino. Se no te lo devi fare a piedi, e devi lasciarci la macchina in casino, Sì, però lo facevo io da ragazzo, quando ero fidanzato, andavamo in quelle calette che c'erano lì. Lui aveva camminato tutta la spiaggia a piedi, dopo salire sulle rocce e arrivare dopo la torretta. Ma io se mi sa dare avviso, lì prendi certi saraghi, lì se ti vai di sera, solo che devi organizzare bene, perché c'è freddo. E io ho preso anche il pulpo, ho fatto pescare su macchina lì, ho preso il pulpo, dei saraghi, di tutto. E già c'è la roba, lì si pesca bene. Però non lo so se hanno proibito, perché una volta sono andato a pescare, se non ricordi, di Angelino, quello di Alghero. Eglia. Siamo andati insieme a pescare a... come si chiama? A Pidetta Mugure lì. E praticamente si è avvicinata la foresta, io come gli ho visto, ho preso un orate e un porco, li ho messi subito dentro la sacca, perché me l'ho già immaginato. Sono scesi, buongiorno, dove siete voi? Tu di Sassari. Ma lo sapete che qua non si può pescare, che è parco. Come parco? No, qua possono pescare solo i residenti. E Alghero ha detto, io sono di Alghero. Sì, ma c'era il permesso del comune. E praticamente cioè, avete pescato qualcosa, allora ritirate tutto, perché se no se avete pescato qualcosa vi devo mettere la buca per ritirarvi tutta l'attrezzatura. Ma anche male che non si sono mossi di pesce, che se no se si muoviare il bottino. Perché lì è una protetta, capito? A Capocaccio a me, e appena prendi le canne da becca, ci ho farà di lavoro stare lo stesso. Metto per me le canne, perché? Perché e qua non si può pescare, mi ha detto. Ma guarda, lei che non aveva neanche messo ancora in acqua. Vabbè, ho detto, non lo sapevo. Allora, gli ho ritirato tutto e mi sono andato. Io pensavo che avessero detto cazzate, perché ho detto scusi, ma siamo sardi anche noi, anche se non siamo di Alghero siamo sardi. È il territorio di tutti i sardi, non è solo degli algherisi. E allora ho detto sì, ma la legge è quella, purtroppo devo far rispettare la legge. Sono chiamato a capitaneria di Alghero e mi hanno detto l'hanno voluto bene, se no c'era un verbale di 1200 euro da fare. Sì, sì, certo. E io pensavo che ne avessero approfittato, perché comunque io non so, c'erano dei tipi che stavano, erano lì, c'è il mar, non lì, però l'inverno è chiuso, e loro erano lì che stavano mangiando sotto il mar, stavano giuffrendo delle sedie, dei tavolini che c'erano nel mar, e sicuramente sono quelli che hanno chiamato la forestale, anche non è possibile. Beh, la cosa a Portoferro è bello, devi andare la mattina, quando vai verso le 9 anche, se andare la mattina presto è meglio, ti fai tutta la giornata, ti metti un paio di marini e la sera te ne sali. Ma li peschi già, ma lì mi si fa vero, ma visto c'è pescate di orate grosse lì, uia. Io lì ho preso un po' di ricci, andavo a ricci, poi pulpi a gogo, anche saraghi me li ho preso. Però facendo pesca subacquea, perché prima facevo pesca subacquea, facevo anche pesca con la canna, ma pescavo la pesca subacquea mi piaceva di più perché avevo i fondali, tutto là. A Portoferro io ho visto dei pesci, mai visti in vita mia, piccolini con la coda azzurri, tutti in branco. Sembravano i neon, quelli che vendono per gli acquari, ce ne prendete azzurri così. Tutti azzurri però, e con la coda a ventaglio, una coda più grande del pesce la coda, il pesce piccolino, la coda grande, ma io non avevo mai visto pesci così, tutti in branco, ma bellissimi, uno spettacolo è. Ma lì poi si pesca bene perché c'è un po' di fondale, capito? Ci sono i canaloni lì a Portoferro, dove volevo andare io. Io ci sono andato un paio di volte e ho pescato bene. Dicevo che il problema è devi lasciare la macchina su e fartelo tutto a piedi fino alla spiaggia. E quello è, già lo so che è così. Poi c'è quella sorgente che esce dalla spiaggia di acqua dolce, in più io non mi ricordo tutto perché da ragazzo ci andavo, poi il mare di Portoferro è l'oppio, come gira il vento ti porta verso un largo. E Portoferro è l'oppio, sì, lì è le correnti. Io ho visto uno, un tedesco con la tavola da surf, stava legando, alzava il braccio, abbiamo fatto la catena umana, nella spiaggia c'era un salvagente con uno spago lungo, con una corda lunga attaccata. Abbiamo fatto la corda umana, abbiamo rischiato per lanciare il salvagente per arrivare a lui. Quando l'abbiamo colto in fuori ha detto che non stava legando, ma dimmi tu, se vera che da qui di una giusta era fatta in mare d'oro. Figurati, per carità. No, già è bello, ma anche l'argentiera, dove c'è il cimitero, prova a fare a Giosu. Avanti. Ciao Federico, ben sentito. Gianni Dottano, va benissimo, grazie. Dove sei Federico? Noi siamo a Sassari, Santiago 5 e la radio del 4, dai, avanti fra. Non ho capito chi è. È un amico di Uri, dai, Federico. Ciao Federico, buonasera, non so se mi ascolti a me lì in quelle coordinate. 5-7, rapporto di segnale qua a zona di Sassari. Ciao Federico, ciao, buona serata, avanti. Marcella, dai, riprendo io. Ciao Federico, buona serata, me l'ha ascoltato. Ce la riascoltare prossimine. Vai già. Sentivo anche io, Federico, anche se c'è un po' di abbattimento. Lo sei già tu. Prova a vedere se ci senti tu. Attento Federico, copia Antonio da Sassa di K. Dove se n'è andato? Di dov'è? Dov'è? Uri. K, attento Federico da Uri, copia Antonio KK. Lo sentivo bene. E deve essere andato via, dai. Cioè, vabbè, era proprio uguale, dai. Certo che lo sento, e il cavolo mi arrivava. 5-7 stava arrivato da me. Poi anche da me, quel poco che ho potuto sentirlo è così, adesso un po' di battimento ciò però. Perché c'è Gio Maria sul Torre sul 23. E quindi allora Santiago 5 Radio 4. A me mi mangio un 7 e arrivava qua. Stavo uscendo con un diploma, quando ho capito. Sta una gamba, no, già ho sentito, non c'è un problema. E vabbè già, la tua che c'è tu, già, è tipo la mia, infatti, magari tu certe cose sei più favorevole per il paese. Non ti penso, non pensare, no? La tua è meglio la zona della via. Per la zona di mare sì, zona Porto Torre, Ghero, eccetera. Allora, per i paesi sono più, diciamo, sì, arrivo, ma più basso. Guarda, io a muro ci arrivo forte, ho detto. Arrivo fortissimo. No, già sono aperto già per i paesi. Sicuramente, il cazzo l'ho sentito bene. Sicuramente, come si dice, lui, cioè adesso se n'è andato, ma lui già mi avrà sentito bene. Vabbè, uno sa che io arrivo, Santiago 9, normale, Santiago 9.30, 9.25, 9.30. 9.25 arriva a Muros. E' attaccato. Come so. Attaccato, Si attacchi, sì. No, vabbè, qualche mattino, dai. Oh già, in quel cobra gli ho adattato l'MB più, cioè l'MB, il Tanner più 3, quello nero. No, ma tu di quel cobra ce l'hai il microfono originale? Originale? Mi pare di sì. Perché io qua c'ho il cobra e non c'ho il microfono. Come non c'è il microfono? Ma c'è un microfono, c'ero un microfono amplificato, ma nell'originale non ce l'ho, e stavo cercando un microfono originale. Capito. Io adesso faccio sentire il Tanner più 3 con col cobra. Sì. E beh, biondo, tutti dopo? Ma non c'è ancora andato. Alle 10 ci esco a casa, alle 10 e mezza devo essere servito. Ah, allora già, c'è il tempo. Dove sei adesso? A Trucco Reale. Ah, non ci sei più lì a Fiumesato? Lì hanno finito. Capito. E dove sei? Dove smaltiscono i rifiuti, la roba della plastica, roba del genere? Dove c'è Musia, l'Opamaio. Dove ci sono i calci, in pratica il calcio li libero davanti. Ma la marcia ce li hai? Senta, se vanno volati con Franco, non ho capito una mazza. Ho detto se c'è le manette, è paroso. Deve arrestare i ladri. Che cazzo male, anche i zogu, sbirro i zogu. Ah, perché non ce li hanno, le guardie giurate ce li hanno le manette. Non le puoi manco trattare, quelli fanno i pistolini, non le puoi neanche usare la manetta, lo sai. All'uscire? Ah, quelli che sono a pronto soccorso, non vale il genere, io li ho visti che ce li hanno. Ma non le possono neanche usare, ce li hanno ma non le possono usare, perché se si fanno male sono cazzi suoi. Per fare il fermo lo si possono usare, perché la volta che l'ha fatto il negozio di mio padre l'ha fermato la guardia giurata, gli ha puntato la pistola, gli ha messo le manette, poi è arrivata la polizia e l'ha arrestato quello lì. Non le puoi usare, manette non le puoi usare, ma neanche la pistola le potevi puntare, lo sai. Non lo so come siano le leggi adesso, e allora cosa fai? Chi ti tira mai? Dice sì, ruba. Adesso lì, quando vedi qualche cosa di strano, devi chiamare la centrale deve chiamare i carabinieri, tu non puoi fare nulla, non ti puoi neanche intromettere tu. Cazzo, cosa ci c'è a fare allora? Se uno per dire sta rubando, tu lo vedi, se dice altro la chi va là, e lui mi dà la casa di buttare la pistola, non puoi fare nulla. Ma non ho capito niente, allora il servizio che facciamo noi, tu devi solo guardare che non entra gente dentro, se tu vedi qualche cosa di strano, movimenti strani, tu devi subito chiamare a loro, non devi intervenire lì, perché non devi, non è a coso tuo a intervenire dal vostro livello. Tu devi subito chiamare a loro, e loro chiamano i carabinieri. Ho capito. Sono intermediario. quindi no, anche quando se guardia armata, io ho fatto guardia armata anche guardia armata a Milano, tu manette sì, te le puoi comprare come bellezza, averle sì, fatti vedere, puoi avere due pistole, e cosa ne fai che non le puoi né usare né una né l'altra? La legge di capo. Cioè, c'è gente esaltata che si fa vedere, che non capisce una massa ancora di questo lavoro. E il mio viene anche da già fare lo sceriffo. Ma per carità. Ma cosa ti avevo detto già? Figa, è come se non fossero niente, te l'ho detto. Mio socio, non sai cosa diceva, loro possono fermare ma non arrestare, devono chiamare a noi. Non possono arrestare, possono fermarla la persona, però prima li potevi ammanettare, perché io mi ricordo che mio socio aveva una mette, noi arriviamo e lo arrestiamo, però non possono fare altro. E anche per sparare, dice, dobbiamo aspettare che lei si spari da lui per sparare lui, perché se no ci possono pure ammazzare prima, capito? Però noi non possiamo sparare. Ce l'ho detto, non posso, adesso sono anche più stringenti le lì. Anche le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine non ti vogliono arrestare. Ti mettono in stato di fermo. Chi ti arresta? È il giudice. Non la polizia. La polizia ti ferma solo. Non ti può arrestare la polizia, ti ferma. E poi il giudice vedrà se arrestarti o no. Però che ti vado ad arrestare, un giudice. Beh, se uno lo prendono di notte e sta rubando, cosa fanno? Lo libero perché il giudice non c'è. No, lo mettono in guardina in stato di fermo. Il fermo passa da fermo ad arresto mediante il giudice. Loro si mettono in guardina, no? E aspettano che venga il giudice a interrogarti. Quando va il giudice a interrogarlo, se è il caso lo arresta, se no lo lascia libero. Ho capito, e vabbè. Guarda, sapersi. La polizia non ti può arrestare, l'unico che ha l'autorità di arrestarti è il giudice, la legge italiana parla chiaro, è così. Vabbè, ma le manette di rimuovere, perché io l'ho visto che hanno arrestato uno una notte, qua c'è tutte le sirene, il cazzo di notte, ho messo le 4, qua c'è la baiana, ho cazzato le sirene, mi affaccio, e c'erano i carabinieri perseguitando questo qua, carabinieri e polizia, da una parte e dall'altra, l'hanno bloccato, lui è entrato in piazza della Meridiana, no? Qui dove c'è, di fronte proprio al mio portone, dove c'è quella, come si chiama, con la rotonda, si è fregato perché lì non si può scendere con la macchina, e l'hanno bloccato, gli hanno puntato la pistola, scende dalla macchina, gli hanno messo le manette, perché ha buttato, lui subito ci ha buttato un piede di porco che ci aveva dentro un cortile, il poliziotto è sceso giù e l'ha preso, guarda cosa ci aveva, apri la macchina, tutto gatto, chiamate l'unità cirofila, non so cosa, sono arrivati con i cani, hanno odorato tutta la macchina, un casino, hanno guardato di mangiare, lui, toglietemi le manette, mi stringono troppo, voi siete i carabinieri, e lei il ladro gli ha detto, noi facciamolo solo bene e lui faccia il suo. Neanche le manette ti possono mettere, solo se uno è violento gli mettono le manette, se uno vola di gabu, perché se non c'è bisogno non te le possono mettere le manette. Lo vedi che possono essere denunciati per tortura, manco Ducati buoni per legge, lo sai, se no è tortura. Oggi cazzo non possono lavorare questa gente in queste condizioni. Questo gridava, mi stringono, me lo allargo, mi stringono, non allargo niente, così lì se ne scappa. L'ha fatto bussare in macchina, poi sono stati un po' di tempo, poi sono arrivati quelli dell'unità cirofila con i cani, hanno impiegato tutta la macchina, un casino, chissà cosa stava facendo. Anche se vuole scendere da una parte o dall'altra, l'ha rimestigato, la macchina di carabinieri ce l'aveva dietro, lui è andato a scappare, è arrivato in piazza della Meridiana, lì ha girato per scendere giù pensando che ci fosse la strada, invece lì non c'è né strada, ci sono i marciapiedi, però sono aggrediti. Vedi, ci avessi avuto una macchina di quelle che fanno un rilli, sarebbe potuto scappare. Una ragazza, vi saluto, visto che non interrompite, vi saluto tutti, vado a portare giù il cane, dai, scherzo. Buona serata a tutti. Ehi, ciao già, ciao, io adesso mangio. Se non c'è nessuno me la chiudo pure io, se no ascolto, dai. Ehi, ciao già, ce la risentiamo alle prossimine. Ehi, Natale. Ciao a tutti, ciao, ci sentiamo. Va bene, dai, che mi metto in piscina per un'oretta, poi mi resta. Piscina del Tunio, dai, io me ne vado a fare carica. Ciao Natali, mi raccomando, farà bravo, sono di loro, ciao Tunio, Gianni e compagni, buonanotte a tutti. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte a voi, sono di loro, bambinetti. Ciao ciao. Ma va mi cazzo la nina nanna. Mamma, mamma, mamma. Tu l'hai imparata ma forza di cose. Cosa? Io l'hai imparata ma forza di cose. Eh beh, cara che non l'hai imparata. Qualsiasi bambino lo imparerà. Non ciampa nei momenti tipo una tranquilla tronca, sarà sempre quella un po'. È quella che ti fa addormentare come la campi, no? La linea, la linea lo vuole drummi. Vabbè, buonanotte, dai, ciao ciao. Ciao ciao.